Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno! La navicella a energia solare Restiamo Animali è in partenza, cari ascoltatori. Sono Camilla Lattanzi e dandovi il benvenuto assieme al resto dell'equipaggio, vi invito per la terza volta a salire a bordo. Partiremo per un'esplorazione della durata di 30 minuti attraverso il pensiero e le pratiche cruelty free, animaliste e antispeciste. Sarà un viaggio di purificazione e trasformazione. Ci sganceremo dalla distruttiva prospettiva antropocentrica e sperimenteremo un nuovo pensiero di tipo ecocentrico. Guarderemo a greggi di pecore come una somma di individui unici, distinti e degni di rispetto. Assaggeremo squisiti ragù ingannatori. Discetteremo di scrittrici lesbiche, scrittori ebrei che scuotono le coscienze e religioni monoteiste. Scopriremo che le istituzioni locali possono fare qualcosa. E innaffieremo il nostro giardino interiore con musiche sopraffine. Giuseppe, nostro adorabile DJ sommelier, cosa ci mesci stamani? Oggi la protagonista della nostra playlist è la pecora, animale che rappresenta la mansuetudine e infatti simbolo del popolo di Dio, ma anche delle persone che vivono in conformità a ciò che le mode sociali, culturali ed estetiche impongono. Inizieremo con le pecore di Orwell, trasformate in miti psichedelici da Pink Floyd, come sentite in sottofondo. Ascolteremo poi un personaggio americano che si definisce un po' mistico e un po' killer, che in un'atmosfera etno-folk psicotropa gorgheggia che vorrebbe essere pecora invece che leone, perché così non mangerebbe animali morenti. Cantando sempre di ovini, gli House Martins ci invitano a uscire fuori dal gregge per vivere una vita più degna. Perché è convinto che chi sceglie vegan ha un aspetto ascetico e penitente, verrà smentito da un famoso artista oversize sia nel fisico che nella voce, qui alle prese con un famosissimo brano strumentale che ha scritto e arrangiato. Ci sarà spazio per una cover degli Smiths, il cui testo ben si addice alla perla letteraria di oggi, mentre le preziose parole del professor Vallauri saranno accompagnate dalla famosa orchestra del Caffè dei Pinguini in un brano ispirato alle pecore, naturalmente. Chiuderemo con un duetto tutto vegan ad alto contenuto energetico, la mordace PJ Harvey e il pirotecnico Tom York. Come sempre vi invito a riascoltare e apprezzare i legami tra musica e parole visitando il nostro blog restiamoanimali.wordpress.com, dove potrete scaricare anche il podcast della puntata o nella home page di Controradio. La puntata di oggi la dedichiamo alla scrittrice Marguerite Yourcenar, nata nel 1903 a Bruxelles e morta negli Stati Uniti nel 1987. In tutti i suoi scritti trapela un immenso, commovente amore per la natura e gli animali. Come il personaggio Zenone di uno dei suoi libri più noti, L'Opera al Nero, Marguerite amava ripetere: mangiare carne è digerire le agonie di altri esseri viventi. Soprattutto il tema della sofferenza inflitta dagli uomini agli altri animali a comparire in moltissime delle sue pagine. Tra le innumerevoli riflessioni su questo argomento vi proponiamo questa: ci sarebbero meno bambini martiri se ci fossero meno animali torturati, meno vagoni piombati che trasportano alla morte le vittime di qualsiasi dittatura se non avessimo fatto l'abitudine ai furgoni dove le bestie agonizzano senza cibo e senza acqua, dirette al macello. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. I wish I was a sheep instead of a lion. Per la rubrica Visti da vicino di oggi siamo andati nella campagna del Valdarno, vicino ad Arezzo, a trovare Simona. Nel suo podere Simona ospita un gregge di oltre 100 pecore. Lei è vegetariana praticamente dalla nascita e ha ereditato le pecore dalla famiglia. Nel suo podere vivono libere e al sicuro, lontane dal pericolo di diventare macchine da lana e da latte o di finire al macello. Adesso, sia per motivi economici che familiari, non può più accoglierle tutte e, con il sostegno di molti attivisti, sta cercando di trovare per loro un'altra casa in vari rifugi d'Italia. Quando siamo andati a trovarla abbiamo incontrato anche un gruppo di volontari che le aiutavano a marcarle, operazione indispensabile per poterle trasportare. Insieme a Simona ci ha accompagnato a conoscere le pecore anche Marco Verdone, un veterinario omeopata, già amico e più volte ospite di Lezioni di Stile. Sentiamo un agnellino che sta chiamando la mamma. Come funziona? Funziona che c'è un imprinting fondamentale, un riconoscimento dai primi momenti della nascita, in cui la mamma riconosce l'agnello e viceversa, sia in base al vocalizzo, al belato, che in base all'odore, per cui un agnello con la mamma si incontrano sempre, se gli diamo la possibilità di incontrarsi. E quindi immagino che anche la sottrazione degli agnellini alle madri sia una cosa molto dolorosa. Ma questo vale per tutte le mamme di tutte le specie viventi, insomma, quando si sottrae un figlio è sempre un trauma. La cosa importante è anche quella di garantire ai piccoli di allattare direttamente alla mamma, perché fa bene a entrambi, perché è un diritto sia della mamma che del neonato. Come tutti i neonati del mondo. Come tutti i mammiferi del mondo. C'è una stretta relazione familiare tra la madre e i cuccioli di queste pecore. Una strettissima relazione, direi, proprio non si lasciano un attimo solitamente. Hanno tutte e due interagiscono, addirittura la mamma, quando anche perde per cause naturali un agnellino, piange per giorni, un pianto proprio lacerante. Cioè, ora che ce li ho, li riconosco, capisco il loro linguaggio, insomma, un po', per quanto certo. Mi è concesso. E tu sei riuscita anche a instaurare delle relazioni particolari con alcune di loro? Sì, certo, ce n'ho uno in particolare che si chiama Pasqualino, e l'ho allevato proprio col biberon, perché capita anche che ci siano ogni tanto delle mamme che o per delle ostruzioni mammellari o perché anche magari è la prima volta che partoriscono, magari non li accudiscono come dovrebbero, insomma. E l'ho allevato col biberon, per cui sente, cioè, mi riconosce quasi. Mi riconosce, mi viene vicino. Adesso vediamo che le pecore escono dalla stalla, dove vengono marchiate e si radurano in piccoli gruppi, sono dei piccoli gruppi familiari, possiamo dire. Sì, sì, no, hanno proprio una gerarchia all'interno del branco, c'è la capobranco, ci sono i vari sudditi, insomma, c'hanno proprio, fra di loro hanno comunque una gerarchia, insomma. E i maschi in questo? C'è un maschio dominante generalmente? Di solito c'è una femmina dominante, almeno io ho constatato questo, poi non so, certo. In altre occasioni è una femmina che tira il gruppo anche per andare da una parte, per andare dall'altra, insomma, e i maschi fanno quello che devono fare, insomma. Sì, ecco. Comunque è molto bello vedere come si chiamano, come si radunano, come vanno poi insieme, si proteggono anche. Certo, poi sono animali erbivori, per cui loro, stando in branco, si sentono rassicurati, no? Quando si trovano da soli hanno più timore, quando si raggruppano tutti in branco, insomma, si sentono più al sicuro. Confermi, Marco, questa tendenza delle pecore a stare insieme, unite? La pecora è, insomma, per antonomasia il simbolo del gregge, del gruppo, per cui per loro l'identità del gruppo familiare è molto importante, quindi vivono in gruppo, c'è un rapporto proprio individuale, di riconoscimento, gerarchico, di fiducia e di compattezza. Una pecora da sola è una cosa che in natura non è prevista. Certo. E giocano anche, vedo che ogni tanto fanno dei saltelli. No, non hai idea come giocano, specialmente gli agnellini, come, guarda, è una cosa bellissima da vedere. Quando non c'è gente che si possono lasciare andare, che sono tranquilli, fanno dei saltelli, fanno dei giochi, proprio come i bambini, uguale, non c'è proprio nessuna differenza, proprio li vedi che sono gioiosi, gli piace proprio farlo, capisci? Senti, tu hai quasi 100 pecore adesso, perché hai deciso di tenerle e adesso stai cercando di sistemarle in vari rifugi in tutta Italia con l'aiuto di tanti volontari? Diciamo così, ho sacrificato la mia vita veramente per loro, perché ci tengo tantissimo che non finiscano, insomma, nel piatto di qualcuno. E ora però sono arrivate a un numero talmente alto, purtroppo, perché non sapevo che c'era la possibilità di sterilizzarle. Da quando ho conosciuto l'oro dell'ipposi, vivere vegan, cioè, mi è cambiata completamente la vita, perché mi hanno aiutato in questa cosa, insomma. E però sono un numero in esubero rispetto al terreno, ai campi dove possono pascolare. Nonostante mi renda conto che comunque queste pecore devono andare via, però sono veramente dispiaciuta di questo, insomma. Se avessi potuto in qualche modo non tenerle tutte, l'avrei fatto. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Il libro Se niente importa, di Jonathan Safran Foer, è un libro al quale devo molto. Ero già vegetariana da più di 10 anni e pensavo che questo bastasse, che fosse tutto quello che andava fatto per il bene del clima e dell'ambiente, per il bene della giustizia nelle relazioni tra nord e sud e per evitare che gli animali venissero ammazzati anche per mia responsabilità. Insomma, non solo mi sentivo a posto con la coscienza, ma anche parecchio impegnata e attiva. I pochi vegani che avevo intravisto mi parevano un po' fissati e inutilmente estremi. Mi raccontavo che se tutti al mondo fossero stati vegetariani come me, il problema sarebbe stato praticamente risolto. Non avevo mai dibattuto la questione con una persona più avanti di me nell'analisi. Avevo coltivato la scelta vegetariana da sola, all'interno del mio piccolo mondo, nel quale ero già sufficientemente rivoluzionaria. Mia madre ha sempre ritenuto che ogni mio mal di testa o raffreddore e anche il mal di schiena fossero tutti dovuti alla mia alimentazione vegetariana. E anche rispetto agli amici e conoscenti, quasi tutti onnivori, ero considerata un tipo coerente e inflessibile. Il libro Se niente importa di Jonathan Safran Foer mi ha fatto capire che non ero arrivata, ma anzi che il più del cammino andava ancora fatto. Ha aperto uno squarcio sulle mie contraddizioni, mi ha messa di fronte a nuove evidenze. In quel libro ho trovato informazioni e dati sulla filiera del latte, del formaggio e delle uova, filiere che hanno come esito il macello, esattamente come quella della carne. Ho capito che essere vegetariani è un passaggio, perché dal punto di vista ambientale, climatico e di protezione degli animali, gli esiti non sono poi tanto diversi. Sempre schiavitù, sempre sfruttamento, sempre aberrazioni produttivistiche, sempre sofferenza. E poi la morte. Ma il libro non si accontenta di questa prospettiva e si addentra sul piano etico, un piano del pensiero e dello sguardo che non ammette mediazioni e che ho trovato particolarmente nutriente. L'autore si chiede se ne abbiamo il diritto e di fronte a questo non ho trovato nessuna possibile risposta se non un secco no. L'argomento della sostenibilità ambientale ammette gradazioni. Quello etico invece non può avere sfumature. Ammettereste un po' di pedofilia o un po' di stupro? L'autore si chiede cos'è un animale. E così ho scoperto che anche noi umani siamo animali. L'autore si chiede se è sentimentalismo preoccuparsi della vita degli altri animali. E io ho capito che a non essere sentimentali si diventa realisti e che il realismo porta a scendere a patti con il martirio di miliardi di animali. Quindi io ho scelto di non essere realista e di restare sentimentale. L'autore si chiede se in nome del gusto sia ragionevole massacrare quelle vite. E io ho scoperto che per me un cibo, per quanto squisito al gusto, se causa sofferenza e morte di altre vite, diventa troppo amaro. L'autore si chiede se le razze animali siano qualcosa di naturale. E io ho capito che se lasciassimo gli animali liberi in natura, le razze che conosciamo scomparirebbero rapidamente. L'autore chiede a un allevatore se avesse mai voluto risparmiare la vita a uno dei suoi animali. E l'allevatore risponde che una mucca una volta gli aveva leccato a lungo il viso prima che lui la finisse con un proiettile. E io ho capito che quella sua risposta era il risultato di una vita e di un sistema violenti, che desensibilizzano e con cui non desidero collaborare. L'autore si chiede come deve essere per un animale una vita degna di essere vissuta. E io ho capito di essere completamente ignorante sull'etologia degli animali e che avevo voglia di conoscerli meglio. Infine l'autore indaga sulle torture e le violenze che vengono regolarmente inflitte agli animali negli allevamenti da uomini abbrutiti dal tipo di lavoro che svolgono. Quella è stata la parte più dolorosa per me, capire che i guardiani degli animali non solo non hanno alcuna compassione e non cercano di alleviare i prigionieri dalle terribili sofferenze che patiscono, ma che spesso diventano anche i loro aguzzini. D'altra parte, nella prigionia e nella costrizione, la tortura e la violenza non si può dire che siano eccezioni. È così anche nei nostri sistemi carcerari, come raccontano tanti tragici fatti di cronaca. Dopo aver letto questo libro, ho sentito il bisogno imperativo di decidere in modo più attivo quello che desidero mangiare e ho vissuto come liberatorio abbandonare scelte che non facevano più per me. Ho sentito una forte curiosità e motivazione verso le alternative esistenti e ho voluto esplorarle. Oggi sono vegana e non ritengo il mio come un punto di arrivo. Sono ancora in cammino, anche perché l'antispecismo è un po' come un paio di occhiali nuovi con i quali guardare al nostro posto nello spazio, nel tempo, ma ho almeno scelto di non contribuire a un sistema che trovo immorale e di questa mia scelta vado fiera. Posso dire che il libro mi ha aiutata a capire e scegliere chi volevo essere, quindi ha contribuito alla costruzione di un pezzettino della mia identità. Per tutte queste ragioni ne consiglio la lettura e non solo a chi è già a disagio con il consumo di prodotti di origine animale, ma soprattutto a chi è a suo completo agio affinché possa porsi le questioni e fare delle scelte che, giuste o sbagliate, saranno almeno consapevoli. Da Se niente importa di Jonathan Safran Foer leggiamo un brano che ci aiuta a fare qualche riflessione in avvicinamento alle prossime feste pasquali. Che cosa aggiunge la presenza di un tacchino sulla tavola del ringraziamento? E che succederebbe se non ci fosse? Si romperebbe o danneggerebbe la tradizione se invece lo saltassimo e ci limitassimo a stufato di patate dolci, panini fatti in casa, fagiolini con le mandorle, composta di mirtilli, patate, purè al burro, torta di zucca e noci pecan? La festa è forse compromessa? Il ringraziamento non è più il ringraziamento? O il ringraziamento ne uscirebbe ancora più forte? La scelta di non mangiare il tacchino sarebbe un modo più sentito per celebrare la nostra gratitudine? Prova a immaginare la conversazione che ne verrebbe fuori. Questo è il motivo per cui la nostra famiglia festeggia così. Sarebbe fonte di delusione o di ispirazione? Sarebbero trasmessi più o meno valori? La gioia diminuirebbe per la voglia di mangiare quel particolare animale? Immagina il ringraziamento della tua famiglia quando tu non ci sarai più, quando la domanda non sarà più «Perché non mangiamo questo?», ma la più ovvia «Perché lo mangiavamo?». Animal House. Notizie, interviste, attualità. Per l'approfondimento dell'attualità ci siamo chiesti che cosa possano fare le istituzioni pubbliche per tutelare gli animali e il loro benessere, sia pure in presenza di normative che ne legittimano la segregazione, lo sfruttamento, la morte. Siamo andati a Milano a incontrare il professor Valerio Pocar, sociologo del diritto, autore di un importante volume sui diritti animali, Gli animali non umani, uscito nel 1998. Dal gennaio scorso, su indicazione del sindaco Giuliano Pisapia, Pocar è il garante per la tutela degli animali del Comune di Milano. Lo abbiamo incontrato nel suo bellissimo ufficio che si affaccia su Piazza del Duomo. Professor Pocar, nella sua proposta di modifica del regolamento comunale è contenuto un brano ripreso dal manifesto antispecista. Credo sia la prima volta che si compie un atto, che si tenta di compiere un atto del genere in Italia. Qual è il senso di questa proposta? Ma io ho pensato di sostituire il precedente riferimento alla dichiarazione UNESCO, che giudico molto buona per quel momento, ma sono passati tanti anni, e di inserire piuttosto un richiamo al manifesto antispecista, perché vi si afferma appunto che anche gli animali non umani hanno uguali diritti, e mi interessava introdurre la parola diritti degli animali all'interno di un documento che poi si occupa del loro benessere fondamentalmente. Qual è la priorità del suo mandato per questo incarico? Io credo che la priorità sia quella di realizzare ciò che la legge stessa sul randagismo prevede e che non è mai stato attuato, cioè dei corsi di formazione e informazione nelle scuole. Io penso soprattutto alle scuole primarie, materne, elementari, forse anche le medie, ma non oltre, dei corsi di formazione e formazione a un corretto rapporto tra uomo e animale. Lei ha anche una proposta di modifica del regolamento con riguardo alle mense? Qui non è una questione di modifica del regolamento, è un'iniziativa che intendo suggerire all'amministrazione comunale, che in molte occasioni ha la gestione di mense, in modo che sia garantito, sulla base di parità e di non discriminazione, il medesimo diritto alimentare per ogni soggetto che ha titolo per ricevere. Nel senso che occorre che per qualità, bilanciamento dietetico, quantità, varietà e così via, sia assicurato a chi è vegetariano o vegano il diritto ad avere il medesimo trattamento che si usa per gli onnivori, e questo anche in funzione del riconoscimento di una scelta etica o di una scelta di carattere esistenziale che va rispettata come qualunque forma di pensiero. Questo perché attualmente cosa succede per vegetariani e vegani nelle mense? C'è molta varietà, ci sono però sicuramente casi nei quali il trattamento non è lo stesso. Io credo che questo dovrebbe essere una scelta, ma non è nella competenza del comune, una scelta che dovrebbe riguardare tutte le istituzioni tenute a somministrare alimentazione. Penso agli ospedali, penso ai ricoveri, penso alle carceri, dove se un carcerato è vegetariano, diciamo, è in grado di sopravvivere solo se ha i soldi per comprarsi del cibo allo spaccio interno, certo. Altrimenti no, e questo secondo me è gravemente discriminatorio, è una sorta di condanna aggiuntiva, violatrice delle idee della persona, che non è prevista, che non ci deve stare. Senta, lei pensa di poter fare qualcosa come in qualche comune d'Italia si è cominciato a pensare per proibire o limitare l'attività dei circhi che usano animali negli spettacoli? Io sicuramente intendo impegnarmi nel modo più come dire, più testardo. Mi rendo conto che la cosa non è semplice. Perché? Perché l'attività dei circhi è un'attività lecita, anzi addirittura finanziata dallo Stato. Quindi è difficile dire che si rifiuta ciò che lo Stato finanzia. E quindi credo che si debba ricorrere al maggior numero di divieti possibile, vale a dire a creare delle situazioni di difficoltà dell'utilizzo degli animali nei circhi, per rendere poco redditizio, poco vantaggioso l'uso degli animali, almeno per quanto riguarda il territorio del comune dove posso dire qualcosa. Se poi naturalmente il circo si attende nel comune di fianco, posso dire niente. Però credo che il fatto che un grande comune pigli dei provvedimenti, diciamo così, sfavorevoli a questo tipo di spettacolo, sia da un punto di vista quantomeno simbolico qualcosa di rilevante, e che da un punto di vista simbolico e culturale possa essere un passo avanti, un piccolo passo avanti, ma un passo avanti. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Agguantate carta e penna, perché se la perdete questa volta veramente la vostra vita sarà diversa, sicuramente peggiore. Benvenuti a C'è pasta per te in diretta da Canile 5. Infatti la ricetta di oggi è pasta con ragù di seitan. Scusa, ma è che lei seitan? Il seitan è un alimento che deriva dalla lavorazione del glutine di alcuni tipi di cereali ed è un alimento molto proteico. Qui accanto a me non c'è Maria, ma abbiamo Camilla che leggerà gli ingredienti di questo piatto che nella versione originale, nella versione tipica, è una delle colonne della cucina italiana, qui trasformato in una prelibatezza vegana. Ma noi abbiamo scelto la versione cruelty free e quindi, signori e signore, dovreste procurarvi 250 grammi di seitan, questo misterioso alimento, una cipolla, una carota, uno spicchio d'aglio, un po' di sedano, 400 grammi di polpa di pomodoro, 400 grammi di pasta del tipo che preferite, sale, pepe, peperoncino, un rametto di timo, basilico, salvia, rosmarino, olio d'oliva e tutto quello che generalmente utilizzate per far venire buono il vostro sugo. Preparazione: pulire gli ortaggi e poi tritateli insieme ad eventuali odori di vostro gradimento come salvia, rosmarino, timo, basilico, per farne naturalmente un battuto che metterete a rosolare in un tegame con un po' d'olio extravergine a cui aggiungerete il seitan, anch'esso tritato. Ma che effetto fa il seitan quando lo butti in tegame? Sta fermo e si rosola. Fate rosolare appunto un po'. Quando l'odore diventa pieno e profumato, aggiungete la polpa di pomodoro, un po' d'acqua, un pizzico di sale e lasciate cuocere finché il ragù non diventi della consistenza desiderata. Preparate nel frattempo l'acqua per cuocere il formato di pasta che ritenete più idoneo. Personalmente ho scelto una pasta corta e rigata in modo che tenesse meglio il sugo. Buono! Una volta scolata, unitela al ragù, rigirate e amalgamate ed è pronta per essere servita e mangiata. A quest'ora poi, se volete, potete aggiungere del lievito in scaglie che dà un tocco particolare al già corposo sapore e inoltre è una fonte di apporto vitaminico. Scusa, ma questo lievito non è che poi il corposo me lo mette anche da un'altra parte? È un altro tipo di lievito, non fa lievitare la panza, ma aiuta. Come hai fatto a capire? Fine psicologo. Siamo dei fini psicologi della cucina vegana. Signori e signore, buon appetito. Sostiene Vallauri. Il professor Luigi Lombardi Vallauri oggi affronterà un tema spinoso, ossia il ruolo giocato dalle grandi religioni nel definire lo status degli animali rispetto agli umani e quindi la loro subordinazione. Santa Maria. Professor Lombardi Vallauri, che ruolo hanno avuto le grandi religioni monoteiste nel determinare l'oppressione degli animali? Hanno avuto un ruolo devastante. Perché hanno sacralizzato non solo la violenza sugli uomini, cioè la guerra, lo sterminio del non credente, le colonizzazioni forzate, le torture agli eretici, hanno sacralizzato la violenza sotto tutte le sue forme, ma per quello che riguarda gli animali le cose sono andate malissimo. Yahweh ha mostrato un volto enormemente più benevolo, qualunque cosa sia il volto di un essere immateriale, al crudele Abele, allevatore di animali, anziché al mite Caino che offriva in sacrificio, come gli egiziani, fiori e profumi. Allora il mite Caino, la collera dei miti è terribile, ha ucciso il sanguinario Abele, ma Yahweh per un bel po' di tempo voleva sacrifici umani, voleva i primogeniti. Abramo ha avuto un'immensa discendenza perché aveva sacrificato il suo unico figlio. Poi Dio gli materializza vicino un animale e partono i sacrifici animali, detestati e criticati per esempio da Teofrasto. Hanno reso anche invisi gli ebrei agli egiziani. Quindi l'Antico Testamento, che è del resto uno dei libri più violenti e più crudeli dell'umanità, tratta gli animali malissimo. C'è un passo quando escono dall'arca di Noè, dove miracolosamente erano riusciti a convivere la tigre siberiana con la gazzella africana, quando escono dall'arca di Noè c'è quella frase terribile di Dio: siate il terrore di tutti gli animali in cielo, in terra e nel mare, essi vi serviranno da cibo, eccetera eccetera. I papi sono andati ancora più lontano. Io sono stato espulso dalla Cattolica perché ho sostenuto la tesi che il Papa è infallibile sì, ma nell'errare, cioè che non ha quasi perso un'occasione di sbagliare e si è corretto mediamente in almeno 3 secoli. Cito solo Pio XII, il quale ha detto agli operatori dei mattatoi non doversi considerare i gemiti degli animali macellati diversamente dai clangori dei metalli nelle officine. Si è fatto quel ragionamento completamente sbagliato: noi siamo immagine di Dio, siamo immensamente superiori e quindi abbiamo ogni diritto, come se appunto la nobiltà ontologica, invece che conferire più doveri, conferisse illimitati privilegi. Poi è successo questo strano accoppiamento dello spiritualismo religioso con il materialismo alla Descartes, con lo scientismo malinteso dell'animale macchina e col capitalismo industriale. In definitiva, il massacro degli animali è il vertice di questa piramide a 3 lati molto preoccupante. Scientismo sbagliato, perché poi è venuta la scienza che dice che gli animali sono esseri senzienti, l'etologia, quindi scientismo meccanicista, spiritualismo di tipo cattolico e capitalismo sfrenato. Qualcosa che è alimentata da queste 3 non può essere una buona cosa. E siamo in chiusura, è il momento dei saluti, ma prima di lasciarvi abbiamo un importante appuntamento da segnalare. Di cosa si tratta? Il Gas Vegando vi invita ad uscire dal branco, entrare nel gregge e liberare una delle pecore di Simona che abbiamo conosciuto oggi partecipando alla cena Benefit. L'appuntamento è per domenica 25 marzo dalle 19:30 alla Casa del Popolo di Settignano, via San Romano 1, Firenze. La cena costa 15 euro. Il ricavato sarà tutto devoluto per salvare le pecore di Simona. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Cellulare 349-67-57-018 oppure alla mail info@gasvegando.org. E sarà un'occasione fantastica per incontrare la redazione al completo di Restiamo Animali con Giuseppe Coco e le sue fantastiche playlist dal vivo. Approfondimenti, fotografie, ricette, playlist, filmati e tutti gli altri contenuti delle nostre trasmissioni come sempre sul blog restiamoanimali.wordpress.com e aspettiamo i vostri contributi su restiamoanimali@controradio.it. Shut up. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.